Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi va a chiacchierare con Bruno Testa, ripreso nel microfono di Morina Moretti, lui che è direttore di sviluppo progetti speciali della casa editrice Astragalo, che è per lavoro art director e fumettista per passione. Lui coltiva i sogni e li realizza con storie, disegni e progetti nell'editoria per ragazzi, frutto di una lunga esperienza lavorativa creata, maturata in aziende quali la Mattei, la Clementone, l'RCS Onviglio, di Agostini, Hachette, Airbnb. E qui la troviamo invece impegnato a presentare una mostra non sulla resistenza, ma sulle resistenze. Allora, con Morena Moretti, dopo lo stacchetto musicale, sentiamolo. Bruno Testa, siamo davanti a una mostra che tu hai costruito, che hai pensato e che hai anche realizzato. Ed è molto, direi anche impegnativa, molto grande, molto bella anche da vedere. I pannelli sono il numero di? Sono un numero di 16 pannelli. Sono 16 pannelli, il titolo è Resistenze sotto il segno del fumetto. Allora presentiamo quindi questi pannelli dei fumetti, che però sono fumetti particolari, non solo quelli della resistenza, ma quelli delle resistenze. Questo concetto che cosa significa, che cosa stiamo raccontando? Questo ha un significato molto importante, perché resistente? Perché attraverso l'arte del fumetto, di questi autori che hanno affrontato argomenti che riguardano l'olocausto, le guerre, le lotte partigiane, la difesa dell'ambiente, oppure le fughe per salvarsi, un popolo che deve emigrare ma per forza di cose, oppure le negazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, fino alle tematiche delle violenze in ambito familiare e sociale, ecco, sono argomenti che i fumettisti, attraverso i loro racconti, le loro storie, hanno affrontato in maniera molto particolare e dando lo spunto al lettore di interrogarsi: cosa succede? Quali sono le resistenze? Come resistere alla violenza e al sopruso? Come riuscire a emergere e lottare, in quale maniera? Ecco, questi pannelli raccontano attraverso 12 graphic novel, quindi racconti a fumetti, quelle che sono queste tematiche. Si può partire anche da una cosa molto importante e basilare, che è il diario di Anne Frank. Esatto, quindi torniamo con questi 12 pannelli, sono però attuali, cioè sono tutte graphic novel uscite di recente. Sì, sono tutte uscite di recente, alcune già qualche anno fa, ma che però nel loro contenuto sono modernissime. Anzi, sarebbe bene rivederle e andarle a riscoprire nelle fumetterie, nelle librerie, dove si trovano e si possono acquistare. Dico questo perché è importante, non sono fumetti che si trovano nelle edicole, ma naturalmente in luoghi specializzati. Ecco, il primo che stavo dicendo, Anne Frank, è un racconto interamente a fumetti, in cui si mette in evidenza tutto quello che è il mondo di Anne, ma anche il sogno di poter cambiare, di poter trasformare. Ed è difficile adesso raccontarlo radiofonicamente, ma certo, vederlo nel suo contenuto grafico è molto bello. Tra l'altro sono dei disegni bellissimi, io li sto vedendo in questi pannelli e devo dire che anche è proprio il disegnatore, il fumettista, è veramente molto bravo, già così rende, no? Sì, perché c'è anche la parte artistica, sì. Non è il fumetto seriale di produzione edicolante, ma dà sfogo a quelle che sono le capacità artistiche anche di sceneggiatura, di scrittura, perché è sempre fumetto, è abbinato a chi disegna e chi scrive la storia. Ma però ci sono anche altri metodi, se ci spostiamo c'è un modo diverso, ma anche la stessa Marvel con Magneto, che è uno degli X-Men, un cattivo, che però le sue origini sono purtroppo quelle ebraiche, no? E quindi viene rimane prigioniero nei campi di concentramento e lì poi capirà qual è il suo destino, no? Nel mondo dei supereroi. Ma in questo fumetto Magneto, che sono le origini, si racconta il suo passato di ragazzo nei campi di sterminio. E quindi cosa fanno i fumettisti? Raccontano quello che succedeva in quel luogo, attraverso quindi l'idea di un personaggio che è conosciuto da tutti. Altre storie sono particolari, sono il popolo per esempio giapponese che vive in Cina, ma con la rivoluzione e i cambiamenti e le guerre diventa un popolo in ostaggio nello stato cinese, e quindi riuscire a tornare a casa diventa, diciamo, un'avventura. Questa è la storia di Saio. E che della storia di Saio, un fumetto interessantissimo. Ce n'è uno molto. Allora, questo invece un po' più classico, lo possiamo allora, dire. Allora, poi ci sono quelli classici, naturalmente. Per esempio, La parola alle donne al titolo, per una resistenza lungamente taciuta, ma perché il ruolo delle donne è stato basilare nella storia della resistenza. Ecco, qui c'è Un fiore rosso per la libertà, e la storia, ecco, di Angela, nome di staffetta, partigiano di staffetta, che a Firenze decide di stare con la resistenza, ed è il racconto di alcune parti salienti della sua storia. La bellezza di questo fumetto è raccontare quali sono i contenuti, perché di questa scelta. Poi ci sono tantissime altre cose interessanti, strane. C'è un gruppo qua che di ragazzi che Restiamo Umani, e racconta nelle vignette passato e presente. Cosa è successo nel passato? Ma nella vignetta successiva è, ecco, un'immagine che ci presenta quello che potrebbe accadere nella stessa situazione. Certi drammi, certe violenze non cambiano mai. Anche qui se vedo Gino Strada come... Ecco, c'è, cioè, Gino Strada è paragonato sicuramente a Perlasca, Schlinder, cioè questi personaggi. L'altra vignetta successiva chiaramente parla dei nostri personaggi, dei nostri eroi, che cercano di... che con la loro resistenza portano la pace. È, diciamo, un percorso ampissimo, perché c'è quel rapporto tra uomo e natura, come la natura possa essere condivisa e raccontare storie. E un'altra parte interessantissima è il graphic journalism, cioè tutto quel giornalismo a fumetti che sta crescendo e fa vedere quello che sta succedendo. Ecco, Salvezza è bellissimo, è il racconto di due fumettisti che salgono su una nave di soccorso, l'Aquarius, e vivono con loro un periodo lunghissimo, raccolgono testimonianze e trasformano tutto in un graphic novel. Questi disegni sono di Lelio Bonaccorso, che è, esatto, molto, esatto, noto, ma anche Marco Rizzo come esatto, autore, quindi sono anche... Poi ci sono cose interessantissime, noti. La violenza tra le mura domestiche, questa Ines di un autore francese racconta tutto in bianco e nero quello che succede dentro in una casa. Ma ti faccio una domanda, Bruno. Vai. Per venire proprio a questo media veicola molto bene i concetti. Oggi tu mi dicevi prima le case editrici lo utilizzano molto. Sì. Dici qualcosa su questo? Cioè, stiamo passando, forse si legge meno, ma si legge più fumetto perché c'è più parte visiva. Questo non vuol dire naturalmente che non sia una bella e importante lettura, quindi non è un passo indietro, potrebbe essere anche un passo avanti. Che ne pensi? Allora, è un passo avanti, colgo questo spunto che mi hai detto. Sì. È un passo avanti, perché se prima era considerato più una lettura popolare, pop, anche se con grandi speciali per certi personaggi, certe tematiche, quindi dava un apporto migliore di qualità. Ecco, adesso diventa proprio uno strumento di lettura che lascia al lettore dei messaggi, degli interrogativi, può leggere e rileggere questa avventura, questa storia, e farsene dei pensieri. È un altro livello, qualitativamente, e di impegno di lettura, perché impegna quindi una doppia azione, che non è più evasiva come quella normale, certo, ma quella proprio di capire a fondo cosa mi vuole raccontare quell'autore, perché quell'autore mette in gioco le sue emozioni e le vuole portare al lettore. Quindi è interessante questo percorso qua, cioè è una qualità veramente che si affianca al romanzo letterario, anche questo, in un altro modo di raccontare attraverso l'immagine. E quindi una mostra che l'hai pensata come una mostra itinerante, una mostra che varrebbe la pena appunto farla girare. E quindi su questo che progetti avete? Come l'avete immaginata questa possibilità di circolazione? In che luoghi? L'abbiamo immaginata questa possibilità attraverso tutte quelle strutture che possono essere le biblioteche, e quindi diciamo un sistema bibliotecario che si è interessato a fare questi percorsi magari itineranti tra tutte le biblioteche che sono unite in questo itinerario, e il fatto che si possono raccogliere le esperienze dirette con i ragazzi, quindi l'invito dei ragazzi a un percorso nel raccogliere le loro esperienze, le motivazioni, capire il perché di questa mostra, attraverso poi tutte le tavole che sono state messe a disposizione, che rappresentano alcune parti salienti sempre di ogni graphic novel, e poi anche in tutte quelle situazioni che possono essere correnze, eventi, location importanti come musei anche, in cui il fumetto può entrare, o gli stessi palazzi del fumetto che esistono in tutta Italia e possono raccogliere questi percorsi. Bellissimo. Comunque, siccome siamo in chiusura, proprio davanti sì. al Nuvole dalle periferie, che è il fumetto bellissimo. Che abbiamo fatto a Bologna come CRAP, allora ti chiedo anche due piccole parole anche di commento su questo. Allora, questa è una cosa interessantissima, perché come dare voce veramente ai quartieri di periferia o a certi luoghi? Ecco, forse il fumetto, attraverso la consapevolezza di chi vive, può essere uno strumento, diciamo, di denuncia, di riflessione, di proposta, di miglioramento. Allora, è bellissimo perché parte dalla base, è il fumetto puro, quello che sento e metto sul foglio bianco e lo racconto alla gente, voglio che partecipi e capisca quello che succede. Uno strumento interessantissimo, perché il fumetto a questo punto può fare, dico una parola un po' forzata, politica, ma la politica pura, cioè cerca di mettere nella polis quelli che sono i suoi racconti, quello che sta succedendo. E fumetto è una cosa interessantissima. E viva il fumetto per questo. Viva. Grazie Bruno. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. E dopo le resistenze di Bruno Testi, passiamo invece alla solitudine di Michael e Mirko nel suo nuovo volume a fumetti L'Isolo, con tanto di prefazione dell'attore Paolo Rossi. I tempi dilatati, la forma di scrittura, il senso del fumetto in questa intervista curata da William Piana, sempre dopo lo stacchetto musicale. Partiamo con il progetto Michael e Mirko, un protagonista molto particolare che vive isolato ed anche un nomen nomen perché è isolo. E Michael e Mirko per Isolo, questo personaggio di cui ho dato qualche breve linea di presentazione, di anticipo, di incipit, come nasce? L'isolo nasce dal desiderio di raccontare la storia di un uomo solo su un'isola, ma un'isola chiaramente disabitata, ma millimetrica direi, un'isoletta piccolissima su cui il massimo dell'architettura è una striminzita palma. Ho cercato di fare un libro che raccontasse un po' tutto il modo di raccontare dei scarabocchi, che avesse dentro tutto il mio modo di raccontare, con un aggettivo direi un libro primitivo. Un libro innanzitutto che si basa senza strategia di cartotecnica, non è né un libro gigante, non è un libro particolarmente accattivante dal punto di vista estetico, è semplicemente una storia che si regge in piedi su se stessa. La storia di un uomo solo, nel sottotitolo del libro c'è scritto vive da solo, circondato dal mare, come tutti noi. Ed è un libro per provare a raccontare cosa succede a una persona quando vive isolata, nel caso del libro vedremo volontariamente, e a me piace proprio usare la scrittura per provare sensazioni che non ho mai provato. Dico sempre che di solito quando si inizia a scrivere ti dicono racconta quello che conosci, racconta quello che tu sai, parti da quello che conosci. Io ho fatto sempre l'opposto, ho raccontato sempre e solo quello che non conosco, sempre e solo quello che non ho mai provato e sempre e solo luoghi dove non sono mai stato. È un buon motivo anche per approfondire ulteriormente attraverso l'arte tutto ciò, eh? Secondo me sì, la scrittura per me è sempre stata indagine, esperienza, uscire fuori. Quando ti dicono cosa c'è di Michael e Mirko in questo libro, di Michael, rispondo sempre spero zero, perché per me la scrittura è veramente un modo per andare da un, ripeto, in un posto dove non sono mai stato. Io su un'isola da solo non ci sono mai stato, su un'isola deserta non ci sono mai stato, e questo libro è un modo per andarci. Ti dico solo, io scrivo senza sceneggiatura, no? Scrivo di pagina in pagina, però capita insomma che magari guidando la macchina in fila alla posta, al supermercato, insomma, scrivo delle pagine mentalmente, la storia continua. Per un momento, durato un microsecondo, continuavo a scrivere mentalmente questa storia, mi sono ritrovato da solo su un'isoletta con milioni di chilometri di mare attorno e con la sensazione perfetta, cristallina, di essere in un posto e non poter mai più tornare a casa, di essere isolato dal mondo, di essere distante dalla civiltà per oceani e oceani. Questa cosa è durata veramente forse una frazione di secondo, ma è stata una delle sensazioni più reali che ho provato in vita mia. E per me la scrittura è questa roba qua. Posso dire, dopo aver scritto questo libro, di essere stato un naufrago. Isolo ha anche ovviamente dei riferimenti, è naufrago, è su un'isola, è circondato dal mare, con quello che purtroppo stiamo vivendo nelle sue conversazioni, che poi magari non sono sempre solitarie, riceve il famoso messaggio nella bottiglia ogni tanto. Sì, arriva proprio una bottiglia con un messaggio all'inizio del libro. Parla di archetipi, come quasi tutti i miei fumetti, parla dell'uomo da solo, isolato, su un'isola, lontano dalla civiltà. E quando parli di archetipi ti accorgi che nessuna storia che parla di archetipi potrà mai non essere contemporanea, non potrà mai non parlare dell'attualità, qualunque tipo di attualità essa sia. Parla dei problemi dell'uomo, nonostante la scarsità di personaggi, la scarsità di situazioni, la scarsità di possibilità narrative, ci si accorge che anche una persona sola su un centimetro quadrato di terra è motivo di attenzione dell'universo, secondo me, è motivo di attenzione dell'umanità, e secondo me si possono fare delle epiche, si può costruire un'epica anche veramente nella vasca da bagno, figuriamoci su un'isola deserta. È un libro, tra l'altro, che titolo ci ho messo un anno e mezzo a trovarlo. I miei libri sono fatti di pochissimo anche character design, però per disegnare il protagonista, che poi magari a vederlo può sembrare l'ennesimo personaggio di Mago del Mirco, l'ennesimo scarabocchio, per cercare il rapporto tra il naso, il corpo, la barba, il vestito strappato, ho consumato 3 libri di schizzi. Il titolo, volevo dare un titolo chiaramente roboante, l'isola del diavolo, e ho cercato dappertutto, cioè, ho inventato 1000 titoli e ho scoperto una cosa meravigliosa, che esiste un'isola di qualunque cosa, cioè qualunque nome è stato applicato all'isola, che sia un'isola vera, reale, o un'opera d'ingegno, quindi un libro, una canzone, un fumetto. Esistono milioni di storie e di opere d'ingegno che si appoggiano all'isola. Poi, quando ho trovato il nome l'isola, che sembra anche comico, ho trovato veramente la chiave del libro per iniziare a lo raccontare. Ci sono tutti i tipi di sensazione, perché è una storia vera, direi quasi reale, quindi c'è la comicità, c'è la disperazione, c'è la rassegnazione, c'è persino la speranza e la voglia di cambiare su quell'isoletta lì. E nonostante un personaggio sia un personaggio solo, come sempre nei miei libri sono i silenzi, il susseguirsi di parole, pause, che fanno proprio la storia. Una cosa diversa di altri libri è che ho compresso molti tempi, a differenza per esempio del Papa di Dio, dove ho cercato proprio di dilatare il tempo al linguaggio. Ci sono pagine e pagine di apparente vuoto, di apparente silenzio, ci sono 100 pagine di una finestra chiusa all'inizio del Papa di Dio prima che si apra. Qui ho cercato di comprimere i tempi pur mantenendoli molto dilatati, quindi diciamo che è proprio un tentativo di sondare il tipo di narrazione che ho io, dove potesse insomma fermarsi, o comunque direi un tentativo di capire il perimetro proprio del tempo. Il fumetto si basa semplicemente sui tempi. Un grande fumettista non è un grandissimo disegnatore semplicemente, o un grandissimo scrittore, è un grandissimo addestratore, ammaestratore di tempi. I fumetti si basano, tutti i fumetti che funzionano si basano su un grandissimo uso del tempo, e il tempo su un'isola deserta di una persona da sola non può che essere forse, certo, in realtà il principale protagonista. Devo dire, da scrittore, nel momento che il personaggio tace è il massimo della scrittura per me, in quel tipo di scrittura, il massimo dell'attenzione. Le pause, i silenzi, il profilo del mare calmo sono il massimo per me di quel tipo di esperienza. Volevo fosse un libro che si stesse in piedi sulla storia, proprio, che senza artifici tecnici, ripeto, un libro primitivo come una persona che vive solo su un'isola senza nessun tipo di tecnologia. Beh, in un momento in cui tutto è rumore, il silenzio, certo, diventa assordante, diventa la cifra proprio stilistica, forse è la stella polare a cui dovremmo mirare. Però è proprio nel fumetto, i fumetti sono pieni di vuoto, soprattutto i miei, quindi il fumetto ha la sua grazia proprio nello spazio bianco, quel vuoto che c'è tra una vignetta e l'altra, dove mette in relazione una vignetta con l'altra. Nei fumetti, lo dico sempre, nei fumetti non è tanto importante quello che scrivi o quello che disegni, ma soprattutto quello che tu scegli di non scrivere e quello che tu scegli di non disegnare. Quello che tu metti sulla carta, quel poco, deve mettere in automaticamente relazione tramite lo sguardo del lettore, tramite pochissimi segni si crea un immaginario in realtà. Faccio sempre un esempio: quando al vivo, se tu nella prima vignetta disegni un personaggio con la mano alzata, nella seconda vignetta disegni un personaggio con la mano abbassata, il lettore vede un personaggio che abbassa la mano, ma in realtà tu hai disegnato solo una mano alzata e una mano abbassata, e tutto quel movimento che c'è tra la mano alzata e la mano abbassata l'ha disegnata il lettore, sì, mettendo in relazione la vignetta 1 con la vignetta 2. Questo quando capisci che il lettore automaticamente mette in relazione un'immagine statica con un'altra immagine statica, creando movimento, ma addirittura creando una storia tra la vignetta 1 e la vignetta 2, capisci la potenzialità del fumetto, che può condensare veramente 1000 anni di storia in una storia di 12 pagine. Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice, in gotico latino,